i podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone. Albania, 1943-1945. Il battaglione Gramsci, di Niccolò Lucarelli. Dopo l'armistizio e la sanguinosa battaglia di Kruja, decine di reduci della divisione Firenze, cui si unirono altri della Perugia e dell'Arezzo, ancora armati di fucili e mitragliatrici leggere, scelsero di continuare a combattere al fianco dei partigiani albanesi. Il comandante della prima brigata d'assalto, Mehmet Shehu, offrì loro di creare una propria unità e il 9 ottobre 1943 nasceva il battaglione Antonio Gramsci, con 137 effettivi, al cui comando fu designato Terzilio Cardinali, già sergente nel 127° Reggimento Fanteria della Firenze. Il reparto fu organizzato su tre compagnie, la prima al comando di Romeo Carnelutti, la seconda di Giuseppe Monti e la terza agli ordini di Giovanni Battista Cavallotto. In quei primi giorni il battaglione fu impiegato in azioni di sabotaggio contro i convogli tedeschi e in assalti contro le caserme della milizia albanese per impossessarsi di armi e munizioni. Dal 4 novembre fu schierato a Berat, liberato appena il 7 ottobre. Ma il 15 novembre, potendo contare sui caccia Messerschmitt BF-110 su potenti carri armati, i tedeschi attaccarono la città. A favorire la manovra anche il tradimento del capo partigiano Elal Starawezka, che, in aperto dissenso con Enver Hoxha circa le interferenze di Tito nella resistenza albanese, rivelò l'entità delle forze italiane e ordinò al secondo battaglione, dislocato sul fiume Osum, di abbandonare la posizione, lasciando scoperto il fianco sinistro della città. Per colmo di cattiva sorte, il partigiano Jean Marcu, che comandava una batteria d'artiglieria collocata nel castello, ai primi colpi sparati dai tedeschi evacuò la posizione, togliendo agli italiani un'altra importante protezione. Alle 5.30 del 15 novembre cominciò l'attacco della 100ª divisione tedesca e, nonostante i tentativi di resistenza, gli italiani capirono subito che la situazione era compromessa. I cadaveri si contavano a decine e dopo 5 ore di aspri combattimenti furono costretti a ripiegare. Fra caduti e prigionieri, il Gramsci perse 146 uomini. Pur provati dalla sconfitta, i militari italiani decisero di continuare la lotta insieme ai partigiani albanesi. Soltanto nel gennaio del 44, colmati i vuoti con l'arrivo di altri ex militari, il battaglione si ricostituì e il 21 prese parte alla battaglia di Tende-Sekipit, importante posizione montana che chiudeva l'accesso verso Clisura e Permet. Qui, al fianco di 2 battaglioni albanesi, gli italiani affrontarono i Werwolf, reparti delle SS specializzati nella repressione della resistenza, ma che avevano lasciato sguarnita quell'importante posizione. I partigiani riuscirono a occuparla e la mantennero per quasi una settimana, fino a quando un violentissimo bombardamento d'artiglieria li costrinse al ripiegamento sui villaggi di Malind, Muzenske, Strenek e Kecibes. Diverse decine di italiani persero la vita, ma non si trattò di una sconfitta, perché di lì a poco, dai nuovi capisaldi, sarebbe partita l'operazione per la liberazione di Clisura, Permet, Lobova e Voskopoja. Alla fine di febbraio, la Wehrmacht lanciò un'operazione contro il Monte Tomor, dove erano acquartierati lo Stato Maggiore dell'Esercito di Liberazione e la rappresentanza militare britannica. Ai primi segnali di movimenti tedeschi, la prima brigata, che inquadrava il Gramsci, mosse dalla regione dello Scrapari verso il Tomor per portare aiuto ai compagni accerchiati. Il cielo coperto impedì all'aviazione tedesca di compiere azioni di disturbo e questo agevolò la manovra dei partigiani. Dai primi di marzo ai primi di aprile, le montagne dell'Albania centrale furono teatro di aspri scontri, ma i partigiani combatterono con valore e in un mese liberarono le zone di Capinove e Martanes. Dopo un periodo di riposo sul finire di maggio, il Gramsci fu impegnato nell'attacco al presidio tedesco di Sulova per liberare i circa 400 prigionieri del campo di internamento. L'operazione cominciò nel pomeriggio del 28. Strisciando sul terreno, nascosti tra la vegetazione, gli italiani giunsero a pochi passi dal campo e colsero di sorpresa i pochi tedeschi del presidio, che risposero con un fitto fuoco di mitragliatrici. Poi, quando cominciarono a sparare i mortai delle vicine batterie tedesche, fu necessario ritirarsi. Nell'operazione cadde il caposquadra Aurelio Storaci. Questa sconfitta fu vendicata alcuni giorni più tardi, quando la piazzaforte tedesca di Ermenegi fu annientata da un ben orchestrato attacco a sorpresa. A seguito della riorganizzazione dell'esercito di liberazione in divisioni, ognuna su tre brigate, il Gramsci entrò nella prima divisione, composta dalla prima, quarta e quinta brigata. In risposta al tentato attacco di Sulova, tedeschi e nazionalisti lanciarono ai primi di giugno un'altra operazione sul Monte Tomor. I partigiani furono costretti a faticose marce notturne tra i boschi per sfuggire all'assedio. Fortunatamente, grazie all'aiuto delle guide, si evitò il nemico e non si ebbero scontri. L'aviazione britannica provvide a rifornire i partigiani paracadutando vestiario, viveri, medicine, armi ed esplosivo al plastico, utile per i sabotaggi dei ponti. Anche grazie alle incursioni italiane, ben 40 ponti distrutti in giugno dai guastatori del battaglione nel settore Polis, Labinot, Sermonica e Dibra, la lotta di liberazione proseguiva incessante. In luglio il Gramsci fu impegnato sulle colline attorno Giorize, a nord-ovest della città di Dibra, ormai accerchiata e prossima alla liberazione. Fu durante questi scontri, per la precisione nell'assalto al villaggio di Strelsa, che l'8 luglio cadde il comandante Tersilio Cardinali. Decorato di medaglia d'oro alla memoria, a lui va riconosciuto il merito di aver restituito dignità militare ai soldati che avevano perso tutto. Comandante del Gramsci divenne Giuseppe Monti. In agosto il battaglione fu impiegato nel settore di Burreli, dove prima costruì una serie di sbarramenti anticarro lungo la strada verso Pescopi. Poi passò all'azione liberando, in poco più di una settimana, Germeni, Remulli, Stogu, Reschen. Alcuni colpi di mano contro i depositi della milizia fascista albanese fruttarono mitragliatrici pesanti Fiat 35 e mitragliatori Breda. Nacquero così speciali reparti di tiratori e mitraglieri che potenziarono la capacità di combattimento del battaglione. Trascorso quasi tutto il settembre a riposo nelle retrovie, in ottobre il Gramsci fu trasferito a Vore, nel nord di Tirana, in vista dell'operazione di riconquista della capitale. Per tutto il mese furono eseguiti i consueti sabotaggi lungo le principali strade della regione. Gli scontri più duri si ebbero tra il nodo stradale di Vore e il villaggio di Kashar, che i tedeschi in ritirata dettero alle fiamme, e nel tentativo di aprirsi la via di fuga verso nord, cannoneggiarono quasi senza interruzione le posizioni italiane. Il Gramsci resisté 2 giorni prima che giungessero di rinforzo la 10ª e la 24ª brigata. 2 uomini rimasero feriti, mentre 1 rimase ucciso, ben 13 invece i tedeschi caduti. Ai primi di novembre il battaglione si spostò verso Tirana e con una brillante azione riconquistò il ponte sul fiume Erzen. Poi, entro il 17 novembre, gli italiani liberarono Farca, Petrele, Muschete. Alcuni reparti del Gramsci entrarono invece a Tirana con i partigiani albanesi, ingaggiando una furiosa battaglia strada per strada contro i tedeschi e nazionalisti. La città fu liberata nel pomeriggio del 17 novembre. E anche il Gramsci ebbe il privilegio di sfilare, il 28, per le vie della capitale. Infine, in dicembre, il battaglione partecipò alle ultime operazioni di rastrellamento di Shkoder e il confine con il Montenegro. Nel 1944 il battaglione ebbe 15 caduti, 4 dei quali nella battaglia per Tirana. Il paese andava lentamente pacificandosi e il Gramsci, trasformato in divisione, per riunirvi tutti gli italiani che avevano combattuto a fianco degli albanesi, fu trasferito nel febbraio 1945 a Miloti, nella regione del Mati, con compiti di controllo del territorio. Poi, a partire dall'estate, cominciarono le operazioni di rimpatrio degli ormai 2500 effettivi, cui furono lasciate le armi e concessi gli onori militari. Se l'Italia poté salvare il proprio onore militare in Albania, lo si deve al sacrificio di quei soldati che scelsero di affiancare il movimento di liberazione. non fu una scelta facile, ma era l'unico modo per riabilitare la reputazione della patria. I podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone.